Friuli nel mondo. 195esima trasmissione dedicata agli emigrati. Le villotte di Zerdini. Concludiamo oggi, cari amici in ascolto, il ciclo delle celebrazioni del centenario della nascita del grande compositore e poeta Arturo Zerdini, che tanto profondamente ha saputo esprimere l'anima canora del nostro Friuli, trasmettendo il terzo ed ultimo gruppo delle sue stupende villotte. Di Bierti Zerdini, ascoltate Il Furlan. Zerdini, ascoltate ora I Suppose. Eccovi ora di Bierti Zerdini a Tercint. Simply. Carletti Zardini, eccovi ora Vince Siet Tuber. Potrete ascoltare ora Queste gentil viole di Zardini. Chiude il programma Agurizze di Bierti Zardini. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari. Hanno cantato il complesso corale Odorico da Pordenone, diretto da Beppi Carone, la corale Zardini di Pontebba, diretta da Gino Piemonte, il gruppo corale Buie di Buia, diretto da Mario Monasso.